Il punto di Stefano Folli. Se la sentenza che lo riguarda è una ferita allo Stato di diritto, come sostiene Berlusconi, cosa sono allora le dimissioni in massa dal Parlamento di tutti gli eletti in segno di solidarietà? Sono un altro e drammatico passo verso una qualche repubblica sudamericana, che peraltro è difficile individuare perché iniziative di questo genere non si usano nemmeno da quelle parti. C'è di buono peraltro che si tratta di una messa in scena. Le dimissioni di massa, cioè tutti insieme, non sono previste dai nostri ordinamenti, che evidentemente nascono da qualcuno che allo Stato di diritto ci credeva. Quindi si tratta di un gesto dimostrativo. Un aventino di destra, possiamo definirlo, un modo per disertare le sedute e lanciare un messaggio molto ostile, anzi una sfida al Presidente della Repubblica che aveva chiesto stabilità, coesione e uno sforzo per il Paese. Disertare il Parlamento in questo momento equivale a mettere in crisi non tanto il governo quanto il nostro sistema istituzionale o quello che ne resta. È bene che qualcuno nel centrodestra ci rifletta.